giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Udine sceglie al ballottaggio il suo prossimo sindaco, si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Decine di coltellate sul corpo di Luca Tisi, il senza tetto trovato morto ieri a Udine, indaga la polizia. Nuova emigrazione, l'anno scorso sono andati via in 2000, la pandemia ha rallentato la fuga. In corso a Lignano il congresso regionale Avis, donatori di sangue in aumento, ma non basta. Pierpaolo Pasolini e Dora Bassi in bici sulle tracce del rapporto tra l'intellettuale e l'artista. Sport, l'Udinese all'Olimpico affronta la Roma, match chiave per la pallacanestro Trieste che ospita Varese. Partiamo con il meteo, il cielo da nuvoloso a variabile sulla regione, queste le temperature registrate alle 17. Trieste 11 gradi e 5 decimi, Udine, Gorizia e Pordenone 14 gradi e 5 decimi. Tolmezzo 11 gradi e 5 decimi, Tarvisio 9 gradi e 5 decimi, Forni di Sopra 8 gradi e 5 decimi, Piancavallo 5 gradi, Sappada 4 gradi e 5 decimi, sul Monte Zoncolan 5 decimi di grado, sul Monte Lussari 0 gradi, a Lignano 15 gradi, a Grado 14 gradi. Vediamo le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Per oggi, al mattino cielo da poco nuvoloso a variabile, in seguito progressivo aumento della nuvolosità, specie sulla fascia orientale. Soffierà vento da nord-est moderato in pianura e sulla zona lagunare, bora con raffiche anche sostenute a Trieste, vento da nord-est sostenuto in quota, specie su Alpi e Prealpi Giulie. E in apertura la cronaca, perché c'è stato un incidente mortale nelle prime ore di questa mattina ad Arta Terme, nella frazione di Cedarchis, lungo la ex provinciale 23. Un uomo di 32 anni, Davis Guida, residente nella frazione di Piedi, ma ha perso la vita a causa delle ferite riportate in seguito a un'uscita di strada avvenuta alle 5.50. Per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Tolmezzo, l'automobilista ha perso il controllo della vettura ed è finito contro la parete rocciosa che costeggia la strada. Liberato grazie all'intervento dei vigili del fuoco di Tolmezzo, è stato preso in carico dal personale infermieristico, intervenuto con una ambulanza e con l'elisoccorso, ma le manovre di rianimazione si sono rivelate inutili, non è rimasto che constatarne il decesso. Altri due incidenti nella notte, in Viale Palmanova a Udine, due feriti, uno dei quali con lesioni severe in seguito all'uscita di strada di un'auto finita contro un platano. A Basaglia Pente, in comune di Basiliano, lungo la statale Pontebbana, sette persone a bordo di due vetture sono state coinvolte in un incidente. Tre che viaggiavano a bordo della stessa auto sono state condotte in ospedale in condizioni non gravi. Oggi giornata di voto di ballottaggio a Udine per scegliere il sindaco della città tra Pietro Fontanini, Alberto Felice, De Toni, 98 le sezioni allestite in tutto il territorio comunale, sono chiamati alle urne più di 80.000 elettori. Si vota oggi fino alle 23, domani lunedì dalle 7 alle 15, lo spoglio delle schede comincerà subito dopo la chiusura delle urne, il risultato sarà valido qualunque sia l'affluenza registrata. E andiamo di nuovo alla cronaca, perché ha scosso Udine un assassinio difficile da decifrare per gli inquirenti udinesi, quello del senza tetto Luca Tisi, ben voluto da tutti nel quartiere. È stato ucciso all'alba di ieri con decine di coltellate. Fiori e lumini accesi nel luogo in cui a Udine è stato ucciso Luca Tisi, 59 anni, originario del Pordenonese, da anni senza fissa dimora. Decine di coltellate, uno squarcio alla gola e una profonda ferita alla testa, risultata mortale. Era ben voluto da tutto il quartiere, lo aiutava un sacco di gente, anche con la spesa. Si vergognava anche di prendere un euro da chi glielo offriva. Questo era Luca. La procura di Udine ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio volontario. Su un biglietto, lasciato sul luogo della tragedia, si legge: «Perché tanta cattiveria e odio gratuiti? La sua dignità è un esempio per tutti noi e anche per te». Faceva cadere la carta e una merendina per terra, la raccoglieva, buttava via. Non faceva nulla a nessuno, poverino. Camminava col suo trolley continuamente ed era buonissimo, non aveva nessun nemico. Indagini in corsa a 360 gradi, senza trascurare piste. La prossima settimana l'autopsia. La polizia del capoluogo friulano sta passando al vaglio le telecamere della zona e della galleria. Nel quartiere diversi episodi preparatori di furto e qualche abitazione svaligiata, ma al momento le autorità escludono una connessione tra i due fatti di cronaca. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Come è cambiata l'emigrazione dei giovani corregionali all'estero? Ne ha parlato Le Fasce di Pordenone. Emigrazione, non immigrazione, partenze, non arrivi. La fuga dei giovani all'estero è l'altra faccia del problema. Il calo del fenomeno migratorio dal Friuli Venezia Giulia negli ultimi 4 anni a causa della pandemia è soltanto parziale e potrebbe riprendere. Da più di 4.000 partenze nel 2019 si è scesi a oltre 2.100 lo scorso anno. Conoscere il mondo, ma soprattutto il lavoro, certo qualificato e abilitante, rimane il motivo più frequente per un individuo che punta a migliorare il proprio stato e poi non ritorna indietro. Grazie all'associazione E Fasce è stato possibile conoscere storie di vita, esperienze professionali, fatiche e successi dei giovani corregionali all'estero. Londra, la meta più ambita, la stessa di Enrico, 28 anni, cuoco, partito da Cordenons. Enrico De Roia. Sono stato a Capri, in Italia quindi, e poi ho viaggiato a Dubai, lavorativamente parlando, Svizzera. E il mio futuro dovrebbe essere Londra. La spinta che potrei avere per tornare in Italia, professionalmente parlando, tanti aiuti, soprattutto dallo Stato, secondo me, aiutano per quanto riguarda la ristorazione. Pordenone, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. E oggi Capriva del Friuli ospita la 46esima Fiesta de Patrie dal Friuli. Le celebrazioni prenderanno il via alle 9:30 con l'esposizione della bandiera del Friuli. Alle 10 nella chiesa parrocchiale sarà celebrata la messa in lingua friulana con letture e preghiere anche in sloveno e tedesco. I festeggiamenti si sposteranno quindi al centro civico. La cerimonia civile della fiesta si aprirà alle 11:30 con l'inno ufficiale del Friuli cantato dal polifonico caprivese. Seguiranno la lettura della bolla imperiale a cura del gruppo storico Città di Palmanova, lo scambio della bandiera e i saluti delle autorità. Poi a Villa Russitz 2 visite guidate alle 15 alla fondazione e alle 16:30 al castello di Spessa. E la comunità serbo-ortodossa di Trieste celebra oggi la Pasqua nel Tempio di San Spiridione Taumaturgo alle 10. Andiamo adesso a Lignano Sabbia d'Oro, dove è in corso da ieri l'assemblea annuale dell'Avis del Friuli Venezia Giulia. Dare di più per i malati, per la comunità. È il filo conduttore del congresso regionale dell'Avis a Lignano. L'autosufficienza, dal punto di vista del fabbisogno di emocomponenti, in Friuli Venezia Giulia c'è già, grazie alla propensione, al volontariato e al dono del sangue del nostro territorio. A testimoniarlo sono i numeri in crescita. I soci Avis in regione sono 10.262, quasi 13.000 le donazioni di sangue, che permettono di rispondere anche alle richieste provenienti da altre regioni come Lazio e Sardegna. Lisa Pivetta, presidente regionale dell'Avis Friuli Venezia Giulia. È stato fatto un gran bel lavoro di squadra, anche l'ufficio di chiamata che noi abbiamo, ovvero il pronto Avis, che è quello che prenota le donazioni in tutti i centri trasfusionali della regione, ha fatto sia durante il periodo pandemico che poi, e continua tutt'oggi, a fare un gran lavoro, garantendo quindi la copertura di tutti i posti che sono prenotabili. Lignano Sabbia d'Oro, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sport e solidarietà a Lignano con la Corsa delle Rose. 2 percorsi di 5 e 9 chilometri che scatteranno da Piazza Marcello d'Olivo a Pineta e andranno a toccare molti dei luoghi più caratteristici della località turistica friulana. La partenza sarà alle 9:30 e il ricavato dell'evento andrà a sostenere l'attività di prevenzione e di diagnosi precoce dei tumori offerta dalla LILT di Udine. Con oggi lo stop dell'attività di accoglienza straordinaria dei migranti organizzato dalla Caritas di Gorizia per la stagione fredda. Da domenica 16 aprile questo alloggio sarà chiuso. La scritta in inglese e in arabo campeggia nelle sale della Casa San Francesco di Gorizia, che dal 9 novembre scorso aveva aperto le porte ai migranti in transito, offrendo un riparo dal freddo. In 157 giorni la struttura ha fornito 4.700 pernottamenti a persone in arrivo dalle aree conflittuali afghane, indo-pakistane, medio orientali e nordafricane. Non chiuderà invece il dormitorio Faidutti, che accoglie 5 nuclei familiari ucraini sfollati dalla guerra. Il direttore della Caritas di Gorizia, Renato Nucera. Noi abbiamo fatto quello che abbiamo potuto e quello che è nel nostro DNA per aiutare queste persone a non morire di freddo, ma dobbiamo ringraziare l'apporto di tanti, tanti volontari che si sono dati da fare in questo periodo e poi anche tutte quelle famiglie che hanno fornito dei pasti caldi. Dobbiamo pensare all'immigrazione come una risorsa e non come un problema. Gli uffici di statistica nazionali hanno ribadito che con un maggior numero di immigrati avremo un debito pubblico che si abbassa notevolmente. Gorizia, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Passione verde a Trieste con la seconda giornata di Orti Tergestini. È un tripudio di colori e profumi la tradizionale manifestazione Orti Tergestini, che per due giorni riempie il parco di San Giovanni di Trieste di piante e fiori, oltre che stand di artigianato. Un'ottantina gli espositori, in arrivo dall'Italia e dall'estero, tanti i visitatori. Sono dei bellissimi fiori, bellissime piante in giro, veramente una bella giornata, una bella mattinata. Si riconferma quest'anno la presenza dei vivaisti storici della manifestazione, ma ci sono anche diverse novità. Lili Soldatic, curatrice di Orti Tergestini. Abbiamo questo vivaista che arriva dall'Emilia, che fa una raccolta specifica, una ricerca degli alberi, antichi alberi da frutto del Friuli e anche dell'Istria. Poi c'è Piante Pazze, che ha una varietà incredibile, una raccolta di orchidee particolari. Tris Contis, che ha delle piante mediterranee. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Nell'ambito del progetto e della mostra su Pierpaolo Pasolini e Dora Bassi, allestita a Gradisca di Sonzo, l'associazione culturale Io Deposito propone un'escursione in bicicletta insieme ad Alberto Pavan, autore del volume Ciclo Nuga e Sui pedali tra le pagine del Friuli. Il via alle 10 di fronte a Casa Maccari. Il percorso collega le mura di Gradisca, care a Dora Bassi, con le poesie legate al Friuli di Pasolini. A illustrarlo Joshua Cesa, vicepresidente di Io Deposito e curatore dell'evento. Questi luoghi sono la cittadina di Gradisca di Sonzo, carissima Dora Bassi, che vi trascorre gli ultimi anni della sua vita, e poi tutti quei paesaggi che vanno dal Carso fino ad arrivare alla Laguna di Grado, che poi anche Pasolini ha raccontato anche attraverso la macchina da presa. Il percorso prevede poi una serie di soste con delle letture. Sì, ci sono delle letture appunto tratte da poeti e letterati del Novecento, dell'Ottocento, quindi si tocca Ungaretti ad esempio, osservando il Carso, il San Michele che ha visto altri combattimenti che poi Ungaretti ha cercato di raccontare con le sue poesie, si lega appunto alle poesie di Pasolini e della sua gioventù in cui era a Casarsa della Delizia e frequentava anche i territori dell'Isontino, ricordiamo ad esempio la poesia che parla di Ruda, e si lega poi anche alla narrativa novecentesca, ad esempio si parlerà di Zeno, quindi di autori che hanno veramente aperto un nuovo modo di pensare l'uomo. Gli spettacoli, ora un altro grande nome, questa sera, questo pomeriggio nel cartellone del Teatro Bondi Colugna, di scena il pianista tedesco Alexander Lonkwitz con un programma incentrato su Schumann, il concerto comincia alle 17.30. Capolavoro poco frequentato di Luigi Pirandello per l'ultimo giorno al Politeama Rossetti Come tu mi vuoi. Ne è protagonista Lucia Lavia, che offre il suo talento alla figura dell'ignota. Luca De Fusco firma la regia dello spettacolo, ospite della stagione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Tradizionale concerto di Pasqua, Passione di Cristo secondo Giovanni nell'Abbazia di Rosazzo a Manzano. Il concerto riproporrà la composizione musicale sacra cinquecentesca, capolavoro del compositore Francesco Corteccia. A fare da cornice la proiezione di immagini tratte dal film di Pasolini, Il Vangelo secondo Matteo, alle 16. Per lo sport iniziamo dal calcio e dagli impegni di oggi dell'Udinese alle 20.45 in trasferta contro la Roma, il Pordenone alle 14.30 a Vicenza e la Triestina che alla stessa ora ospita il San Giuliano. Cercare di approfittare di un avversario con la testa all'Europa League e la possibilità di rimonta giovedì contro il Feyenoord. L'Udinese all'Olimpico sarà ospite di una Roma spuntata, out gli infortunati Dybala e Abraham, giocherà Belotti ancora a secco, che ha come obiettivo quello di far risultato ma risparmiando energie. Un'occasione di riscatto per la squadra di Sottil, che viene dall'opaco pari contro il Monza e dal ritiro evitato per un soffio. Udo oggi, dopo averlo fatto in centro al volante, cercherà un impatto anche sulla consueta fascia di sinistra. Multa pagata, giocatore perdonato. campionato importante invece in Serie C, soprattutto per la Triestina. Gli alabardati hanno un punto di vantaggio sul Piacenza e devono mantenerlo per non retrocedere. A Rocco contro San Giuliano, altra pericolante e possibile avversario nei play-out, serve vincere e fare attenzione ai cartellini proprio in vista degli spareggi retrocessione. Il Pordenone invece, richiamato Di Carlo dopo la parentesi Stefani, cerca se stesso e ha due giornate per farlo, possibilmente recuperando una posizione che permetterebbe un turno di play-off in meno. A Vicenza il test tra due deluse può caricare un po' l'ambiente prima della lotteria finale, dove su 30 squadre di tre gironi per salire in B ci sarà un unico posto. Le due squadre hanno i migliori attacchi del gruppo, difficile pensare a uno 0-0. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Adesso il basket. In A2 la Gesteco Cividale ha vinto in rimonta contro gli ospiti del Piacenza per 78-74. In A la Pallacanestro Trieste è impegnata oggi alle 18:30 in casa, ospita Varese in un match fondamentale in chiave salvezza. E di nuovo in A2 la Pudina alle 18 al Pallacarnera ospita la Reale Mutua Torino. Scatta l'ora dei play-off per la Tinet Prata, in campo in un palasport storico come quello dei Lupi di Santa Croce. Per la prima volta l'opportunità di misurarsi con i quarti di finale che portano in Superlega alle 18. E torniamo ancora al basket. In A2 femminile la APU Women del Ser Udine perde per un soffio in casa del Castelnuovo Scrivia 61-60. La futurosa Trieste cede sul parquet di Bolzano per 72-57. In Serie B Pontoni Monfalcone vince in casa contro il Petrarca Padova per 72-66. Basket in carrozzina, la Castelvecchio Gradisca incontra nella gara 1 di semifinale playoff il Don Orione. Si gioca a Roma. La gara di ritorno si giocherà al Palazzimolo sabato alle 16:30. L'eventuale terza partita sempre a Gradisca, domenica alle 11. Ancora sport, in corso la prima prova di campionato Triveneto Mini Enduro per ragazzi da 8 a 14 anni, partecipano in 60 da Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ci sarà anche la prima prova di campionato Triveneto di regolarità per moto d'epoca antecedenti il 1999 a Gradisca di Sonzo in località Saletti. Le prove sono già iniziate a Codroipo, il campionato regionale di skateboard disciplina street per junior, senior e master. La competizione inizierà alle 11. L'apertura del Piccolo di Trieste è dedicata all'economia del mare, la nautica da record, affari saliti del 20% anche in regione per le 167 aziende attive nel settore. Subito sotto le zone d'ombra della sicurezza, mentre la fotonotizia in alto è tutta per gli orti tragestini. Infine le due notizie di cronaca, senza tetto friulano di 58 anni ucciso nel centro di Udine e si schianta in moto contro l'auto, morta una ragazza di 18 anni. Nell'edizione di Gorizia e Monfalcone anche l'addio al maestro Valentinuzzo, morto in seguito alla caduta da una scala, mentre nella cronaca cittadina si parla di abbonati zone blu più beneficiari. E poi a Monfalcone, al mercato coperto, lo sport integrato, cantiere sbloccato, lavori a luglio. Di piede per gli eventi, a Grado, birra e asparagi per attirare i turisti. La cronaca in prima pagina sul Messaggero Veneto di Udine con l'omicidio di Luca Tisi in città, la morte della 18enne Martina Socciarelli in un incidente a Verzenis. In alto, seggi aperti in città, gli udinesi scelgono il sindaco, un funerale sinti, poi Caffeletto ha bloccato le strade qualche giorno fa e il treno carico di mezzi corazzati transitato qui in direzione Ucraina. Luca ucciso perché ha visto i ladri è il titolo del Gazzettino per il delitto di Udine. La foto, i sub al lavoro per cercare l'arma. In prima pagina anche il ballottaggio di Udine, la morte della 18enne a Verzegnis e lo sport sul Gazzettino di Pordenone. In apertura, posti letto tagliati all'ospedale di Spilimbergo in vista delle ferie dei sanitari da 35 a 24. Accanto 600 persone manifestano a San Vito per chiedere la chiusura del centro nascite privato del San Giorgio. Sotto scuole al freddo, docenti e bimbi malati. Sul Messaggero Veneto l'omicidio di Udine, l'incidente di Verzegnis e poi si ricorda anche la sospensione della corsa automobilistica Verzegnis-Sella-Chianzuttan. In alto, vandalismi alla parrocchia San Francesco sfondano la recinzione per giocare a pallone. Ora gli appuntamenti al Teatro Verdi di Trieste, sesto e ultimo appuntamento del ciclo Lezioni di Storia Ribelli. Luigi Mascilli Migliorini parlerà di Robespierre al cuore della rivoluzione alle 11. Torna in presenza la festa diocesana dei ragazzi al Bella Italia Era Village di Lignano in 600 tra i 10 e i 13 anni per l'evento dell'ufficio diocesano per la pastorale giovanile. Tra Gorizia e Nova Gorizia il taglio del nastro del percorso transfrontaliero da Via Cappella alla Castagnevizza, ripristinato grazie al lavoro dei due comuni in vista di Gorizia 2025, alle 9.30 nel piazzale del Monastero della Castagnevizza. Per gli incontri astronomia, la scoperta dell'universo alle 10.30 al Museo Civico di Storia Naturale di Trieste, Spazio 4.0, ultima frontiera, relatore l'astrofisico Fabrizio Fiore, direttore INAF, Osservatorio Astronomico di Trieste. Il FAI organizza una giornata alla scoperta del Borgo Carsico di Monrupino, guideranno i visitatori gli apprendisti ciceroni che si sono formati durante le giornate FAI per le scuole, visite in lingua italiana e slovena. E apre al pubblico la Villa Romana di Torre nel parco del fiume Noncello a Pordenone dalle 10.30 alle 12.30, la visita guidata è prevista alle 11. Vediamo i programmi della sede. Alle 9.15 la prima puntata dell'originale radiofonico Intrighi e Passioni Giacomo Casanova fra Trieste e Gorizia. In televisione alle 9.15 su Rai 3 Alpe Adria Magazine La Terra Disegnata di Fabio Pappalettera. È tutto per questa prima edizione domenicale del giornale radio. In regia Federico Comari, in redazione Laura Sarasini, dalla Razzani e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto, l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.